9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 28 di settembre. Prima dell'argomento del giorno, il solito sintesi di ciò che sta avvenendo sul crinale più delicato, più incandescente dell'eurocrisi. Sono giorni quelli dopo Washington in cui l'entusiasmo sembra soffiare le vele dei mercati. Vedremo se anche oggi sarà così. L'annuncio del fondo salva stati, che in realtà non c'è alcun accordo per farlo, però per due giorni ha entusiasmato tutti, quindi le sine hanno corretto verso l'alto. Ieri le aste italiane e spagnole sono andate relativamente bene, continuando a incorporare naturalmente un aumento superiore ai 100 punti base rispetto alle emissioni di agosto, quindi siamo al punto tale che 100 punti base in un mese incorporati in emissioni di analoga duration ci sembrano il bel tempo. Ma in realtà le notizie più delicate venivano dal Parlamento tedesco e sono oggi sul Financial Times stamattina, perché in realtà il Financial Times riporta che ieri in una sessione riservata con i suoi parlamentari della CDU CSU la cancelliera Angela Merkel abbia affermato che virgolette, noi proveremo a evitare il default greco, ma non possiamo escluderlo. Poi ha lei e il ministro Wolfgang Schäuble confermato che in realtà non sono favorevoli all'aumento della dotazione dell'FSF, e questo è necessario ripeterlo nelle riunioni riservate del gruppo. Perché? Perché in realtà solo così si può arrivare alla maggioranza di 311 che serve la cancelliera per far passare tra domani e dopodomani la ratifica degli aiuti stabiliti per la Grecia a luglio scorso. Altro che aumento del finanziamento e intervento automatico di un TARP europeo come quello chiesto dall'America e dai paesi emergenti a Washington all'Europa in questo fine settimana. Questo lo ribadisco solo perché a me pare che in realtà, al di là dell'entusiasmo e della correzione verso l'alto dei mercati di questi giorni, la situazione resti molto molto molto molto preoccupante. Spero di sbagliarmi, ma non credo, a dirvi la verità. Quindi, anche se per qualche giorno i giornali si distraggono portando tutt'altri temi in prima battuta, il contrasto tra Tremonti e Berlusconi che avrebbero fatto pace e contemporaneamente però non riescono a mettersi d'accordo per esempio sul candidato alla guida della Banca d'Italia, perché tra poche settimane Draghi se ne va, ma noi il candidato non ce l'abbiamo, perché non sappiamo se sarà Saccomanni l'interno oppure Vittorio Grilli il candidato del ministro dell'economia a stare alla testa della Banca d'Italia, e poi via via le code delle prese di posizione della CEI. Ma a me sembra che rispetto a tutto questo la condizione economica finanziaria resti il punto di maggior delicatezza. La presentazione del manifesto per la crescita italiana annunciato da Confindustria, di cui questi giorni, giorno dopo giorno, vi abbiamo ricordato, è giovedì, non è domani, si è preso un altro giorno Confindustria, vedremo che cosa c'è scritto in quel manifesto. Ma oggi in questa puntata doverosamente, secondo me, e ringraziando lo Svimez che ieri ha richiamato lo Svimez, sapete, uno dei grandi storici osservatori di studio e di approfondimento dell'economia del Mezzogiorno, legato al pensiero democratico meridionalista, da qualche anno sempre più polemico, ce ne siamo occupati diverse volte nelle mie trasmissioni, sempre più polemico verso la distanza, l'indifferenza, la distrazione che la politica riserva ai temi della convergenza e della coesione nel Sud. E ancora una volta ieri lo Svimez ci ha richiamato tutti con una batteria di numeri proposti dagli economisti che lavorano per lo Svimez su il gap del Sud che si amplia, che si approfondisce. È un gap che sui giornali viene oggi riannunciato, riapprofondito anche dal punto di vista demografico. Lo tsunami demografico diventerà la cifra del rapporto presentato dallo Svimez ieri, perché le proporzioni e l'intensità dell'addio al Mezzogiorno, dei giovani senza futuro per la disoccupazione altissima in un paese che ce l'ha non tanto alta quanto altri paesi europei, ma che ce n'ha altissima proporzionata soprattutto sui giovani. Ecco, nel Sud una disoccupazione giovanile così spaventosa induce tutti alla fuga. oggi tentiamo di capire, al di là, me lo auguro, del torneo verbale che si scatena sempre quando si toccano i temi del mezzogiorno, con le spaccature tribali del nord che dicono se non ci foste voi saremmo tutti meglio, dal sud che dicono colpa della Lega, eccetera eccetera. Ecco, io tenterei di evitare, se possibile, se tutti coloro che chiameranno per dirci la loro opinione sono d'accordo nell'evitare questi toni tribali, io sarei loro grato, e tentiamo invece di capire che cosa si può fare, richiamati brevemente le cifre, le proporzioni del gap del mezzogiorno, perché si possa, nella difficoltà di aumentare la crescita di un paese che cresce così poco da 15 anni, però abbinarvi anche l'obiettivo di riprendere a crescere nel sud, anche perché senza crescita nel sud non si cresce in tutto il paese, a meno che si pensi che solo la parte a più alta concentrazione di produzione industriale pro capite col manifatturiero che esporta debba caricarsi dell'onere di crescere per tutto il resto del paese, ma in questo però significherebbe appunto dare un messaggio chiaro: andatevene, perché lì che cosa state a fare? Allora, abbiamo in questa nostra trasmissione Adriano Giannola, che è il presidente dello Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria del mezzogiorno. Ringrazio e saluto, grazie presidente Giannola. Grazie a lei, buongiorno. E abbiamo poi Massimo Garavaglia, che è vicepresidente della commissione bilancio della Lega Nord. Buongiorno, onorevole Garavaglia. Buongiorno. Giannola, allora, per chi non avesse letto nei rilanci di agenzia, per chi non avesse letto oggi i giornali, se dovesse sintetizzarci in 3 minuti i punti salienti che avete illustrato ieri del gap che si riapre, quali sono? Ma punti salienti sono prima un'analisi dei risultati, diciamo, del 2010, per cui c'è ormai una chiarezza di dati, delle previsioni per il 2011 e la conferma di una situazione che vede un aumento della divaricazione nord-sud all'interno di un declino generalizzato, di una difficoltà generalizzata sia del nord che del sud a mantenere i ritmi molto blandi della piccola ripresa europea. Cioè, il nord nel 2010 cresce di 1,7%, molto meno quindi degli altri paesi europei, il sud rimane al palo con lo 0,2%. Le previsioni per il 2011 sono di un nord, di un'Italia che cresce molto molto di meno, 0,6% secondo noi, e quindi, spacchettando questo dato molto deludente, il sud potrebbe anche addirittura avere un segno meno e il nord comunque collocarsi su una stagnazione sostanzialmente. La Confindustria arriva al 2012, fa una previsione di crescita estremamente contenuta, e quindi questo ci conferma su un trend di pericoloso divaricazione, pericolosa perché, se poi andiamo a vedere il mercato del lavoro, gli oltre 600.000 posti persi in Italia in questi ultimi anni, il 60% circa è collocato al sud, il sud che ha famiglie monoreddito, che insomma sappiamo bene tutte le caratteristiche, e che quindi si orienta sempre più necessariamente a una situazione, diciamo, tanto buona di lavoro nero irregolare o invece di inattività, e questo colpisce appunto i giovani, quelli che tentano di emigrare, ormai non tentano neanche più di emigrare, e crea una situazione socialmente veramente difficile oggi e ancora di più in prospettiva. Questo è un po' il sunto. E se si passa dalla parte, diciamo così, analitica, inciso, tra l'altro ieri sono state rese pubbliche la release dell'ultimo riaggiornamento delle previsioni di crescita fatte da JP Morgan per l'Eurozona, sull'Italia io ero convinto che ci fosse un errore quando me le hanno girate, e quindi poi ho richiamato, e invece la previsione corretta al ribasso da JP Morgan, che ripeto mi sembra da prendere molto con le molle, e invece poi che mi è stata confermata, è uno spaventevole meno 1,2% per l'anno prossimo. Non lo dico per il torneo delle cifre, ma dico perché l'intensità della correzione al ribasso, le previsioni nell'ultimo mese, dipende da come si fanno girare nei modelli i dati del commercio mondiale da una parte e dall'altra delle previsioni degli effetti sulla domanda interna delle manovre. Per questo si spiega, lo diciamo a chi ci ascolta, che vi sia una forbice così tanto ampia di previsioni per l'anno prossimo, sono tutte orientate al ribasso, bisogna vedere però quale sarà poi davvero l'intensità del ribasso, non perché gli economisti siano dei matti, ma perché i modelli reagiscono diversamente ai dati nel breve che stanno entrando, e sono dati di un forte rallentamento del commercio mondiale, quindi meno export, e dall'altra bisogna vedere come i modelli previsibili poi interpretano gli effetti sulla domanda interna delle manovre. Ma quando si passa appunto dalla parte consuntiva 2010, quindi disoccupazione vittime tra virgolette al sud che al nord della crisi, alla parte invece un po' costruens e si lamentano le manovre di politica economica negli ultimi due anni, il nocciolo dello Svimez, proposto dallo Svimez per cambiare un po' marcia per fare più coesione e crescita al sud? Noi appunto di fronte a una dei consuntivi così deludenti e così anche preoccupanti proponiamo e sosteniamo ormai da due anni almeno, anche da più, che il sud invece è una grande opportunità, a prescindere dal fatto che è l'unica area in cui ci sarebbe forza lavoro sovrabbondante eccetera eccetera, ma anche una grande opportunità proprio di rilancio dell'economia italiana, e ci focalizziamo su tre aspetti principali. L'Italia ha un deficit energetico molto consistente e soprattutto questo impone un costo alle imprese del nord e del sud differenziale che riduce la competitività del sistema. Ecco, il sud è l'area dove una politica energetica molto attiva può ridurre questi costi e rilanciare un'economia a livello locale e nazionale. La logistica, altro grande tema, quindi un discorso di infrastrutture strettamente collegate a un progetto, il progetto di attrezzare l'Italia per essere la vera piattaforma sul Mediterraneo della globalizzazione, per intenderci, vedrebbe nel sud, ma anche nel resto d'Italia, ma nel sud in particolare, una realtà tutta da organizzare, potenzialmente estremamente interessante, estremamente dinamica. E l'ambiente, l'acqua, insomma tutti questi elementi che fanno la green economy in generale e in particolare la missione mediterranea italiana nel momento in cui il Mediterraneo è tornato al centro del mondo, ci sembrano opzioni per ora non praticate e invece con urgenza da praticare. In questo senso sì, il Sud può ripartire, e non da solo, ripartire come fattore di vantaggio competitivo per il sistema complessivo, perché il sistema complessivo potrà anche apparentemente andare meglio al nord, ma in realtà sta andando malissimo al nord e al sud. Onorevole Garavaglia, che alle osservazioni di chi dice le manovre di questi anni hanno ampliato il gap, la sua risposta è no, è evidente che ci sono tendenze diverse di produttività e di redditività del capitale dovuto a fattori preesistenti di lungo periodo che nella crisi quindi non fanno altro che ampliare l'effetto diversità tra le due aree del paese, oppure invece una risposta ad hoc ricentrata sulla coesione del sud per far crescere di più l'Italia, ma in termini anche di concentrazione delle energie e degli sforzi nella parte più debole, come richiesto dallo Svimez, secondo lei ha fondamento? Ma guardi, i tanti commenti al rapporto Svimez sono ancora in crisi di retorica e vogliono ancora la solita ricetta dei più soldi, però sono completamente fuori dalla realtà. Il gap si è ampliato perché il mercato è in crisi e dove c'è poco mercato chiaramente la crisi è ancora maggiore. Quello di cui ha bisogno il Sud è una riconversione all'economia di mercato, punto. La crisi globale impone un ridimensionamento pesante della macchina pubblica. E pensiamo alla vicina Grecia che deve lasciare a casa 150.000 dipendenti pubblici, fatte le proporzioni per noi sarebbero 650.000 per capirci, la metà degli impiegati nella scuola. Ora, è evidente che se devi ridimensionare la macchina pubblica il sud si trova in difficoltà perché lì la macchina pubblica è più pesante, quindi questa via ce la dobbiamo semplicemente dimenticare. E allora che fare? Sentivo prima l'energia, ecco lì io starei attento perché siamo già in una situazione di sovrapproduzione, questo non lo si dice, però il nostro paese è in una situazione di sovrapproduzione dal punto di vista energetico, quindi c'è poco da insistere su questo lato. Bisognerebbe allora, visto che di soldi non ce n'è, intervenire sulla regolazione, su come far partire il mercato. E allora posso fare alcuni esempi, per esempio uno che è simbolico ma assolutamente non irrilevante, l'abolizione del valore legale del titolo di studio, che vuol dire la fine dell'illusione che un pezzo di carta poi risolva il problema, perché poi questo titolo crea aspettativa, soprattutto aspettativa di ingresso nella pubblica amministrazione, innescando tutto un circolo vizioso che non porta da nessuna parte. E poi c'è tutto il mondo, in particolare della bioedilizia, pensiamo al solare termico che a mio avviso dovrebbe essere reso obbligatorio subito dappertutto, ovunque, e in particolare in meridione dove si ripaga in un paio di anni. Chiaramente poi però anche imponendo di portare la fattura in comune, così evitiamo che ci sia del nero. Per non dire la questione dei rifiuti, che sono una risorsa, e anche qui si potrebbe imporre da subito di raggiungere gli standard delle regioni del nord come presenza di termovalorizzatori. Ecco, questi sono alcuni esempi di cose che si possono fare, ma passano dalla regolazione. Infine c'è il tema annoso dei fondi europei. E purtroppo, andando a Bruxelles almeno una volta al mese per la commissione bilancio, non si percepisce ancora da noi che dal 2013 la storia cambia. Dal 2013 i fondi europei di coesione, come li vediamo noi, spariscono, e non ci saranno più fondi semplicemente dati alle regioni dove il PIL pro capite è più basso, ma i fondi verranno distribuiti in base alla capacità di utilizzarli, in base alla resa in termini di nuovi posti di lavoro, di utilizzo efficace di questi fondi. E qui sinceramente mi viene la pelle d'oca. Effettivamente, Giannola, quando si obietta, come ha appena fatto Garavaglia, però c'è una questione di fondo tra le condizioni di le precondizioni di un mercato rispetto alle due aree del paese, e si inizia a mettere in fila le osservazioni su ciò che la pubblica amministrazione del sud riesce a fare, per esempio nella percentuale di utilizzo dei fondi di coesione europea e così via, ecco che la biforcazione si apre di fronte ai nostri occhi. E quindi, dal punto di vista dello Svimez, come si risponde invece a chi obietta così? Ma guardi, a me sembra che l'onorevole Garavaglia abbia fatto una serie di osservazioni che sono, per così dire, alcune delle quali sono molto puntuali, altre sono i luoghi comuni che forse una corretta lettura dei dati o una corretta informazione, diciamo, sta cominciando a incrinare. Il fatto che il Sud ci sia la divaricazione perché nel momento della crisi il Sud paga di più la crisi, a parte che è esattamente il contrario di quello che si diceva sempre, che quando c'è la crisi il Sud ne subisce di meno perché è un'economia meno aperta ed è meno di mercato, ma questo è un inciso. Il vero problema è che inviterei l'onorevole Garavaglia a guardarsi i dati dal 1998 ad oggi, prima della crisi, e a confrontare le dinamiche del nord e del sud. Scoprirebbe che proprio il cuore pulsante del mercato, cioè la manifatturiera del nord, è in crisi, indipendentemente da come va il sud, sono due crisi parallele. Perché? Perché la produttività del nord è bloccata, nonostante i salari più bassi d'Europa, il costo del lavoro per unità di lavoro appunto è, per unità di prodotto è uno dei più elevati d'Europa. Perché? Perché il nord è in crisi dal 1998, cioè dal momento in cui non c'è più possibilità di svalutare. Non è la crisi quindi che fa la divaricazione, la crisi finanziaria per intenderci. Il problema è che l'Italia è un sistema in crisi, all'interno c'è una parte debole che tra l'altro con il nero è estremamente utilizzata al nord, e che oggi come oggi non funziona più. Quindi la divaricazione che è rimasta stabile dal 1998, che oggi in qualche modo si accentua in modo preoccupante, non è una specificità del Sud, legata a una specificità del Sud, è purtroppo legata alla debolezza estrema di quella che si continua a considerare l'area forte del sistema. Lo vediamo quanto è forte, lo vediamo dagli effetti di queste crisi anche al nord. Se guardiamo la dinamica del prodotto, della produttività, del costo del lavoro, il nord ormai è sganciato dal resto d'Europa ed è in caduta libera. Se confrontiamo con la Germania, la Francia, basta guardare i dati, un minimo di lettura attenta e diciamo serena ci farebbe dire che il problema è un problema nazionale, non è un problema di troppa pubblica amministrazione al sud, che per inciso in percentuale della popolazione è più bassa che al nord. Poi l'energia, siamo in sovrapproduzione, il problema è come produciamo. Produciamo con risorse nazionali proprie o importiamo qualche cosa da fuori, gas, petrolio, eccetera, eccetera. Ora dobbiamo sostituire, specie dopo diciamo la fine del sogno o dell'incubo nucleare, chiamiamolo come ci pare, oggi siamo costretti a fare i conti con l'Europa 20-20-20 e quindi decidere come fare questo aggiustamento. Queste sono cose reali, non sono questioni ideologiche, sono cose di mercato perché hanno a che fare con le imprese. Se chiudiamo le imprese che producono alluminio in Sardegna, come stiamo chiudendo perché se no le dobbiamo sovvenzionare, pensiamo un piano energetico già sviluppato che sostituisce per esempio con la geotermia del Tirreno, cosa inesistente, ed è invece potenzialmente enorme, come dice un premier come Rubbia, quindi non è una questione di localismo stupido, è una questione di mancanza stupida di strategia da parte del sistema, non del sud o delle regioni inefficienti, siamo tutti d'accordo, ma il sistema si pone i problemi del sistema o non se li vuole porre, si illude di integrarsi con la Baviera come una provincetta all'interno di una Europa strana o si pone pena di avere un ruolo in un'Europa in cui il Mediterraneo è tornato al centro del mondo? Io credo. Aspetti, la interrompo perché dobbiamo andare in pubblicità. Tanto era chiaro insomma il tono e gli argomenti della sua risposta a Garavaglia. Eccoci qui, tornati in studio. Siamo con il presidente dello Svimez, Adriano Giannola, e con l'onorevole Massimo Garavaglia, vicepresidente della commissione bilancio della Lega Nord. Stiamo commentando i dati del rapporto Svimez sul gap meridionale rilasciati ieri. Sintesi, prendo un solo titolo dalla stampa di oggi: Il Messaggero lo presenta così: Sud in caduta libera, PIL fermo, aziende in fuga, disoccupati record, solo un giovane su tre lavora, 600.000 emigrati in 10 anni. Prima di sentire un po' di ascoltatori che impressioni hanno di fronte a questi numeri e alle ricette che propone Giannola e alle obiezioni che ha fatto Garavaglia, ho una lettera di un ascoltatore che mi ha molto colpito, perché noi poi la nostra missione di radio è quella di aprire le orecchie su chi nella piccola impresa, tra i commercianti, gli artigiani, gli autonomi, oltre che la media e grande impresa, tenta di portare avanti la baracca al di là delle divisioni polemiche politiche tra nord e sud, tra destra e sinistra, e ci bombarda di segnalazioni sugli aggravamenti reali che derivano dalle misure del governo di questi anni. Cito il governo non perché sia di destra o di sinistra anch'io, ma perché questa è la testimonianza che poi porta le associazioni di impresa a crescere la durezza delle loro critiche, delle loro richieste. Allora, questa è la lettera di Beppe che viene da Padova. E ci dice: un'azienda commerciale che fattura ad altre imprese non ho rapporti con privati. Quando consegno merce e fatturo scatta il versamento dell'IVA e la contabilizzazione dell'utile. Negli ultimi due pesantissimi anni di crisi, gli insoluti, ancora da regolare, hanno raggiunto valori pari a 3 volte l'utile annuale. Sono certo di rispecchiare la maggior parte delle aziende simili. Lei lo sa di certo, ma non lo sanno i lavoratori dipendenti, che per questo ce l'hanno sempre con noi. Lei lo sa di certo che ciò significa ricorrere alle banche ed anche alle proprie risorse personali per poter pagare delle imposte dovute per legge, ma in palese contrasto con la logica e il buon senso. Mi sembra che anche la Costituzione sancisca il principio che ognuno è tenuto a versare al fisco una quota dei propri guadagni, laddove mi pare evidente che però che per guadagno bisogna concepire qualcosa che è tale solo nel momento in cui si realizza, che è un concetto completamente diverso rispetto al momento dell'emissione di fattura, sul quale io devo pagare poi allo Stato. Non per nulla, continua Beppe, avvocati e commercialisti emettono una notula, una fattura, un proforma o altro che si trasforma in fattura fiscale solo dopo l'incasso. Perché questa concessione discriminante? Sto seriamente pensando che sarebbe giusto chiudere la baracca, non ce la faccio più, anche perché in banca mi hanno chiesto di alzare le condizioni di tutti i prestiti nell'ultimo mese. Questa cosa che va sotto slogan IVA per cassa, e che era una delle promesse dei governi del centrodestra, è una delle ragioni tante volte dimenticate quando le campagne di odio sociale tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi dividono gli italiani dicendo la colpa è tutta degli autonomi e di chi ha una impresa piccola. Non è così, e per questo do ascolto alla voce di Beppe Padova e invito tutti voi che siete convinti che siano falsi problemi a considerare quanto lo Stato chiede per sé tempi assolutamente spartani e draconiani, perché se sgarri anche solo di un minuto sui tempi degli anticipazioni dei conguagli fiscali scattano multe del 30, 40, 50%, quando per sé si dà invece anni per pagare. E naturalmente col cavolo che accetta l'idea dell'IVA per cassa, naturalmente quando si va in credito si aspettano anni per vedersi restituire indietro i denari dello Stato. Questa non è questione di politica, è questione di buon senso, ha ragione Beppe di Padova. Basterebbe una misura così, anche se farebbe forse male ai saldi dello Stato, ma darebbe più trasparenza e onestà ai conti dello Stato, per mettere alcuni miliardi di liquidità in più nell'economia italiana. Quindi mi limito a questo solo esempio. Sentiamo un po' di voi invece come la pensano sul tema della puntata della giornata, sul rapporto Svimez e le sue cifre sul gap del mezzogiorno. Vittoria da Milano, prego Vittoria, invito tutti a essere brevi naturalmente. Vittoria. Sì, nel limite del possibile, buongiorno. Volevo suggerire ai ragazzi del Sud che ci sono delle alternative al lavoro che non esiste. Il lavoro va assolutamente cercato nell'ambito del proprio entourage. Io ho un bed and breakfast a Milano, ho avuto due ragazzi calabresi, due fratelli disperati perché non hanno lavoro, hanno la laurea ma non hanno lavoro. Ho fatto loro questa semplice domanda: avete una casa di proprietà? Risposta: sì. Siete lontani dal mare o siete vicini? Lontani. Ci sono delle chiese, ci sono dei monumenti, ci sono delle attrattive, si mangia bene da voi? Sì. Bene, aprite un bed and breakfast. Detto fatto, l'hanno aperto, ieri mi hanno mandato una mail, pensi la coincidenza con la sua trasmissione, ringraziandomi per il suggerimento. 70 euro a notte, riempiono per 20 notti, sono 2.800 euro che si dividono tra fratelli. Si sono iscritti ad un corso in inglese perché hanno avuto stranieri ed è stata fatta. Voglio dire ai ragazzi del Sud, guardatevi attorno, avete una casa di proprietà? Ho sentito stamattina il ministro Bambini che diceva che c'è un incremento dell'8% nei confronti del turismo enogastronomico. Il mondo ci sta guardando, vengono da noi perché da nessun'altra parte come da noi si mangia e si beve in maniera eccelsa così. Abbiamo in più i monumenti, abbiamo il mare, abbiamo di tutto e di più. Io quando vado all'estero, invitata dai miei clienti, e mi dicono: sei italiano, sei meraviglia, beato te che vivi in Italia. Vittoria, chiarissimo, è chiaro cosa dici, guardatevi intorno, valorizzate le risorse e tiratevi sulle maniche, quindi dateci dentro. Non tutti hanno la casa, non tutti stanno in un posto così, ma intanto l'invito io lo condivido. Lino da Caserta, prego Lino, breve. Aia, la qualità del collegamento telefonico mi sembra pessima. Lino, riproviamoci un secondo, proviamo a richiamarlo. Intanto andiamo a Paolo da Milano. Prego Paolo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, rispetto a 20 anni fa il gap esiste sempre, sì. Ma non come differenza di produttività, secondo me, tanto che le industrie attive oggi sono più nel centro-sud che nel nord, dove chiudono in continuazione. E quindi la differenza cosa la fa? La fa soprattutto il soldo pubblico. Quelli sì che fanno la differenza, sapendo oggi, come conferma l'antimafia, che la criminalità organizzata controlla una buona parte delle risorse pubbliche, questa ha deciso, io sono una prova vivente perché ho un'aziendina piccolina anche nel sud, questa ha deciso la criminalità organizzata, dicevo, scientemente di spostarli al nord, probabilmente sa per la maggiore complicità che ha trovato nel chi gestisce la cosa pubblica e dirò di più, anche per una predisposizione alla corruttela maggiore che c'è da noi purtroppo rispetto al sud, come si sta vedendo giorno per giorno. Quindi questo è il vero gap oggi, non tanto la lei dice che la crescita inferiore è dovuta al fatto che la criminalità organizzata, l'economia nera si è riorientata a investire e a spostare flussi verso il nord. Ok, grazie Paolo. Raffaele da Milano, prego Raffaele. Buongiorno dottor Giannino, innanzitutto lasci che le rivolga una testata di stima, perché dal punto di vista economico secondo me... Vabbè, andiamo al punto, Volevo solo riportare la mia esperienza di un milanese che vorrebbe aprire qualcosa di nell'oro che è del nostro paese del sud. Io ho una villa giù in Puglia, mi sarebbe piaciuto trasformarla in un bed and breakfast, avrei voluto acquistare dei terreni per aprire dei camper park perché sono un campeggiatore, e invece mi sono scontrato con nessuna certezza, perché non è possibile trasformare terreni che sono incolti, che sono abbandonati loro stessi, a uso e destinazione diversa. La burocrazia, le difficoltà, l'incertezza di investire dei soldi senza sapere che poi ottieni il tuo scopo, mi hanno fatto desistere da questo insano proposito. Però temo che questo non avviene solo perché è la Puglia, questo sarebbe un problema italiano che avrebbe probabilmente dovunque. Naturalmente è diversa la sensibilità di amministratori in aree diverse, non è detto che corrispondano al tradizionale asse nord-sud, le diversità di sensibilità. Naturalmente quando si tratta poi di variazioni d'uso dei terreni bisogna vedere dove sono locati, quanto sono ampi, eccetera eccetera, perché capisce che questo è uno dei termometri sul quale si alza la sensibilità e la febbre. Raffaele da Milano? No, c'era Lino da Caserta, non l'avete richiamato? Ci tenevo Lino da Caserta, va bene. C'è un Vincenzo da Napoli. Vincenzo? Non c'è Vincenzo da Napoli? E allora andiamo ecco, c'è Vincenzo, sì. Buongiorno. Allora, io sono un imprenditore, 44 anni, una società unipersonale, diciamo così, nella quale abbiamo investito negli ultimi 2 anni circa 750.000 euro di soldi personali liquidi. Non lavoro con il pubblico, lavoro assolutamente nel privato, ma per vicende personali sono stato espropriato dell'impianto che avevamo costruito per costruire il termovalorizzatore di Salerno, quindi vicenda anche abbastanza alle cronache per la questione dei rifiuti a Napoli. Io sono 2 anni che attendo il saldo dall'amministrazione pubblica, anzi dal governo in forma del commissario straordinario. Praticamente rimane un credito bloccato che risolverebbe tutti quelli che sono i miei problemi di liquidità. Morale, la segnalazione a sistema di quello che può essere il ritardo nei pagamenti mi ha comportato un peggioramento dei rating verso gli istituti di credito, i quali chiaramente riducono il merito creditizio della mia azienda, con tutto quello che ne consegue. Io non voglio lavorare con il pubblico, sono uno che vuole lavorare assolutamente con il privato. Invito chiunque a leggere gli editoriali sull'argomento termovalorizzatore. Collegandomi magari fuori trasmissione, chiedo scusa, alla questione dei rifiuti di Napoli, che credo tutti conoscano, ci sono dei articoli su internet, su Google, c'è un bellissimo editoriale di Isaia Sales scritto, è ritrovabile tranquillamente su internet. Morale della storia, la mia situazione è questa qua, molto probabilmente metteremo in liquidazione questa società, perché chiaramente il riuscire da questo tipo di situazioni diventa abbastanza complicato. E niente, questa era la mia testimonianza. Io non sono uno che ha chiesto finanziamenti pubblici. E però provando a mettere propri denari per tentare di risolvere con propri capitali uno dei temi più delicati della convivenza civile e ambientale nel sud, ci ha rimesso, lo Stato non paga e chiude l'azienda. E questa è la sintesi. Informazione stradale, poi torniamo con Lino da Caserta, Luigi da Napoli, e la conclusione con l'onorevole Garavaglia e il presidente dello Svimez. Eccoci qui per conclusione della trasmissione dedicata al Svimez. Ecco come Repubblica da oggi notizia dell'analisi delle cifre, delle proposte dello Svimez: entro 40 anni 2 milioni di giovani in meno al sud, industria a rischio estinzione. Anche lì il titolo era sullo tsunami demografico sud, anche Repubblica. Sentiamo ancora rapidamente Lino da Caserta, è la terza volta che ci chiamiamo, vediamo se riusciamo a farti parlare. Lino, brevemente, prego. Buongiorno dottor Giannino, mi sente? Rapido, su. Sì, guardi, io la chiamo per la questione vergognosa della chiusura della Leni a Casoria. Praticamente l'Airmacchi ha piccola realtà rispetto alla Leni, che è una società nata nel 1926, prestigiosissima, con grandissima cultura industriale, viene fagocitata dall'Airmacchi perché per l'ingresso della Lega Nord, che sta fagocitando tutte le realtà industriali, quelle possibili. Ma il problema, guardi, non è la Lega Nord, il problema è una politica, dei rappresentanti politici che sono totalmente inadeguati, che distruggono le realtà industriali. Io voglio ricordare una cosa a lei e agli ascoltatori, che il primo telefono cellulare è stato realizzato a Caserta, alla Italtel, credo. E il primo computer, laptop, è stato realizzato sempre a Caserta, al mondo, sto dicendo, al mondo. È stato realizzato a Marcianise. Cioè c'erano realtà incredibili che sono state totalmente distrutte da una classe politica incapace. Aspetti però Lino, adesso dopo che ci ha segnalato questa cosa, a me tocca l'obbligo da giornalista di dire, non è che sono i politici alla testa, cioè questa cosa di Aenerma che avviene all'interno di una razionalizzazione del comparto aeronautico di Finmeccanica. Finmeccanica è un gruppo a controllo pubblico, il 32% pubblico, il resto è sul mercato, ha cambiato qualche mese fa amministratore delegato, oggi è Orsi che viene da West, nel gruppo elicotteristico, e c'era un problema nel comparto aeronautico di razionalizzazione, come c'è un problema nel comparto ferroviario di Finmeccanica che riguarda Ansaldo Breda e Ansaldo STS. Queste sono le due razionalizzazioni che infatti a fine luglio il nuovo management ha annunciato al mercato. E non è che è la politica che decide queste cose, perché Orsi che viene da Western come prima Guarguaglini, cioè sono manager di un gruppo che assumono delle decisioni rispetto ad andamenti di perdita consolidati e a previsione del settore aeronautico rispetto alle frenata mondiale fa meno ordini. Questo lo dico Lino, non perché io voglia entrare o far cambiare il suo giudizio, però credere che è Bossi che decide le linee di politica aeronautica di Finmeccanica, francamente conosco Orsi come conoscevo il manager precedente, Lino, io non sono d'accordo, quindi ho l'obbligo di informare i miei ascoltatori, perché non è così, cioè non è che capisci che un partito politico dice ai manager di Finmeccanica chiudete uno stabilimento e apritene un altro, però siete liberi di pensarla come volete. Luigi da Napoli. Buongiorno Oscar, niente, io sono d'accordo con te sul fatto di non continuare a mettere sul piano tribale di questa diversità e questa lotta nord-sud, però è vero che oggi si sta perpetrando un nuovo sacco ai danni del sud, che passa attraverso la mancanza di interventi strutturali forti per il recupero di infrastrutture, ma anche di piani varati da anni. Basti pensare che Bagnoli a Napoli langue ancora dopo il fallimento dell'industria pesante, che vogliamo accettare, però comunque ha lasciato una ferita aperta nel cuore della città. E questo territorio, non so se ha visto la trasmissione presa diretta di domenica sera, è veramente desolante, devastante. E un altro problema che mi preme sottolineare è che una rinascita che deve riguardare soprattutto la piccola e media impresa, perché scordiamoci, la grande industria oggi non ha più futuro neanche al nord, è un intervento, e lì il rappresentante dell'ASMEZ, dello Svimez, che evoca vecchi ricordi di ASMEZ, Agenzia per il Mezzogiorno, e poi CASMEZ, la Cassa di Sviluppo del Mezzogiorno. C'è bisogno di nuovi interventi che però non passino più da mani politiche, che attraverso strutture leggere possano arrivare direttamente ai giovani, agli nuovi imprenditori che vogliono impiantare un'attività sul territorio. Grazie a Luigi. Allora, adesso abbiamo un minuto e un minuto a testa. Chiedo ad Adriano Giannola, chi fa notare non riuscite nel sud a spendere miliardi, decine di miliardi dei fondi di coesione europea, ha ragione. C'è un problema di intermediazione della classe pubblica amministrativa locale, e c'è la possibilità di mandare incentivi automatici che non passino per la discrezionalità sulle istruttorie dell'esame del piano industriale da parte dei politici. È una buona ricetta oppure è già fallita anche questo? Ma altro che un minuto ci vorrebbe, mi limito qui a fare alcune precisazioni. Dovremmo correlare i problemi, il patto di stabilità interno, eccetera, eccetera, con la capacità di spesa. Su questo finalmente pare che ci sia un intervento nell'ultimo decreto proprio per la stabilizzazione che apre qualche spiraglio. Quindi. E poi ovviamente il disastro che noi abbiamo denunciato fin dall'inizio, quindi non è che la Svimez è a supporto di tante inefficienze e incapacità. Il disastro della nuova programmazione lanciata nel 98 dopo la fine dell'intervento straordinario era annunciato, ma non perché c'è solo inefficienza, quello si accumula rispetto a un problema, quando sbagli completamente l'analisi, dai delle terapie sbagliate e a quel punto metti in moto tutto il peggio che si è messo in moto. Detto questo, una precisazione, l'Aermacchi, il trasferimento a Verona è della sede legale, non si chiude la Lenia, e questo è ancora più scandaloso, si porta la sede legale a Verona nella sede ex Ermacchi, che è fallita, che è entrata in Alenia senza nessun motivo apparentemente. Però vede, anche lei dice senza nessun motivo apparentemente, perché c'è la Lega dietro. Io non riesco a capire, ma cioè, francamente, io, quello è un gruppo quotato, è un gruppo quotato e che ha problemi non secondari. Adesso io chiedo semplicemente a Garavaglia, quindi in pochi secondi, se ha solo anche una pillola da aggiungere a quello che ha scritto fino ad oggi. Però se voi credete che nelle aziende si prendono così le decisioni, secondo me non avete idea. Lo dico rivelando il mio conflitto di interesse. Ho appena mandato all'House Organ di Finmeccanica un pezzo su queste robe qua, perché lì si perdono soldi. Cioè, se voi pensate che se invece la questione sia che sia vergognosa perché va a Verona invece che di qua di là, io non sono d'accordo. Comunque, Garavaglia, se dovesse dire la sua opinione su qual è la strada da seguire? Ma io ho sentito il dibattito, sono preoccupato, perché si pensa che si possa andare avanti con le ricette antiche. Soldi pubblici non ce ne sono, non ce ne saranno, né per il nord né per il sud. Si può solo crescere con l'impresa, è solo l'impresa che genera ricchezza, perché la parte pubblica genera ricchezza fin tanto che nei costi standard, dopo distrugge ricchezza e basta. E per crescere oggi bisogna pensare ai mercati esteri, perché purtroppo tutta l'Europa ha una domanda e avrà negli anni prossimi una crescita abbastanza bassa, per cui un'impresa deve avere almeno il 30% di fatturato all'estero per stare in piedi decentemente. Questo è quello che si può e si deve fare per il manifatturiero. Il sud ha la grande opportunità del turismo, però lo diciamo da almeno 50 anni e purtroppo noi vediamo dalla Malpensa aerei che vanno in tutto il mondo e pochi in sud. E pochi che vengono qua. Io ringrazio l'onorevole Garavaglia, ringrazio Adriano Giannone, ringrazio tutti gli ascoltatori, la linea generale radio, appuntamento a domani.